Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Benvenuti a Smart City. Trasmettere energia elettrica a distanza senza fili è un obiettivo che gli scienziati perseguono ormai da molto tempo. Il nome più famoso legato a questo tipo di ricerca è quello del geniale inventore Nikola Tesla, che ci provò già tra fine 800 e inizio 900. Da alcuni anni questo tipo di ricerche sono riprese con grande forza per via della diffusione di apparati mobili come cellulari e un domani veicoli elettrici, che si vorrebbe riuscire a ricaricare senza bisogno per forza di stabilire una connessione fisica, quindi con l'uso di un cavo con la rete elettrica. Finora però i tentativi non sono andati a buon fine, non quando l'obiettivo, oltre a quello di trasferire energia, è di farlo con un'elevata efficienza, cioè limitando al minimo le dispersioni e a una distanza significativa. E qui veniamo alla ricerca di cui vogliamo parlare questa sera, pubblicata su Nature da Shanhui Fan della Stanford University e colleghi. Descrive un sistema di trasferimento dell'energia elettrica senza fili che, appunto, a detta degli autori, può raggiungere elevate efficienze su diverse distanze. Ci facciamo aiutare, insomma, a capire un po' meglio questa tematica da Luigi Piegari, professore di convertitori macchine e azionamenti elettrici al Politecnico di Milano. Buonasera Piegari, grazie di essere qui con noi. Buonasera. Allora, senta, intanto forse possiamo partire dai quelli che sono i principi di base su cui si può fare affidamento per tentare di trasmettere energia elettrica a distanza senza fili. Sì, dunque, i principi di base per trasferimento di energia senza fili sono sostanzialmente due. Il primo è un principio che si basa sull'induzione. In pratica ci sono due circuiti di cui si alimenta il primo genera un campo magnetico che, accoppiandosi con il secondo, trasferisce l'energia. È il principio utilizzato all'interno di tutti i trasformatori già dalla fine dell'Ottocento, ed è il principio che utilizzano anche i fornelli ad induzione. Perfetto. Per riscaldare le pentole o le panelle. Per trasferire, appunto, senza fili energia alla pentola, c'è una bobina sotto, molte bobine di solito magnetiche lì sotto. Perfetto. Poi però c'è un'altra possibilità che in realtà è anche imparentata con questa. Sì, il secondo principio è più simile invece ad una radio. Abbiamo sempre due avvolgimenti o due circuiti, di cui il primo funziona da trasmettitore e il secondo da ricevitore, però il primo funziona come un'antenna, quindi di fatto quello che si trasferisce non è più un campo magnetico ma un campo elettromagnetico, e dall'altro lato c'è un'antenna ricevente che riceve questa energia. E quindi un principio molto più simile alle onde radio e lavora a frequenze molto più alte rispetto al principio di induzione di cui abbiamo parlato. Se volessimo rimanere in cucina, l'oggetto più simile è il microonde, corretto? In qualche modo? Sì, sicuramente microonde. Il microonde non ha un ricevitore, esatto, in sé, ma c'è un pollo al posto dell'antenna del ricevitore, c'è un pollo che semplicemente si scalda, ecco, non trasforma, non recupera poi ancora energia elettrica, però la trasmissione di energia è basata sulle microonde. Ecco, veniamo a questo punto alla ricerca questa di cui stiamo parlando. Come affronta il problema? Qual è il principale, insomma, elemento di novità che lei vede in questa ricerca? Dunque, questa ricerca cerca di risolvere due problemi fondamentali che lei ha anticipato. Il primo è legato all'efficienza e il secondo è legato alla distanza, alla posizione reciproca dei due circuiti. Come si cerca di risolvere il problema? Si realizzano dei circuiti risonanti, quindi dei circuiti che sono simili a degli oscillatori naturali. Questi circuiti oscillano in maniera naturale a una loro frequenza e si sfrutta questa oscillazione per il trasferimento di energia. È chiaro che a questo punto il trasferimento di energia deve essere adattato alla frequenza di oscillazione naturale dei due circuiti. Quello che si cerca di fare in questo articolo è fare in modo che questa frequenza rimanga il più costante possibile al variare della distanza tra i due circuiti. Ecco, cioè il fattore distanza, quando parliamo di distanza parliamo di decine di centimetri, non è che stiamo parlando di decine di chilometri, per capirsi. Il fattore distanza influenza le caratteristiche del sistema. Questo è come se fosse autosintonizzante, possiamo metterla in questi termini? Perfettamente così. Benissimo, benissimo. Quindi un po' questa è l'idea avuta dai ricercatori. Ecco, senta, veniamo al tema della concretezza, perché poi in realtà questa ricerca chiama in causa cose complicatissime anche di meccanica quantistica. Ecco, al di là di tutto questo, concretamente l'applicabilità di questi sistemi come la vede e quando la vede? Dunque, attualmente nella ricerca proposta quel che si fa, si accende un LED, quindi si trasferisce pochissima potenza, anche se ha rendimento molto elevato. Si può trasferire più potenza a quelle distanze? Teoricamente sì, praticamente e tecnologicamente bisogna fare dei balzi in avanti, per cui il fronte temporale non è vicinissimo, tenendo conto che bisogna anche risolvere il problema di che cosa succede agli oggetti che sono interposti. In mezzo, che passano lì, no? È come appunto il microonde, uno non vorrebbe trovarsi, no? Lungo la traiettoria del fascio di microonde. Perfetto. Quindi come fronte temporale per trasferire potenze che siano significative si va sulle decine di anni. Con queste tecniche, quindi insomma molto lontano. Ecco, però c'è un orizzonte più vicino che invece è quello che riguarda i veicoli elettrici, dove si torna, diciamo così, alle tecnologie che ricordano più i normali trasformatori o i normali fornelli a induzione, per restare nei nostri, nelle nostre metafore. Sì, caricabatterie, diciamo, di veicoli elettrici esistono già non solo a livello prototipale, anche con qualche piccolo prodotto, per potenze che sono molto più significative, decine di kilowatt, sono in grado di funzionare a distanze anche di decine di centimetri, 20-30 centimetri, con efficienze intorno al 90%, quindi comunque di tutto rispetto come efficienze. Quali sono i principali problemi di questi sistemi di ricarica? Sono legati all'allineamento dei due sistemi, perché il veicolo ovviamente deve essere allineato con la bobina che si può trovare ferma a terra. Può essere legata alla distanza, che effettivamente può essere un problema per l'efficienza. E per questo quel che si è cercato di fare anche in alcuni progetti è di disporre di avvolgimenti interrati in più posizioni, in maniera tale da riuscire a trasferire lungo il percorso dell'automobile una quantità di energia che risulti significativa e con efficienze comunque dell'ordine dell'80%, diciamo. Ecco, perché comunque consideriamo che 80%, 90%, che normalmente sarebbero delle efficienze alte, qui non lo sono particolarmente, perché la quantità di energia che bisogna trasferire è molto significativa, e perderne anche il 10-20% quando un cavo non disperde quasi nulla è piuttosto problematico. Ecco, lei diceva quindi distribuirli lungo la strada, in pratica quando l'auto ci passa sopra riceve un impulso, poi riceve un impulso da una bobina un po' più avanti, poi riceve un altro impulso di carica dalla bobina ancora più avanti. Esattamente, il problema qui potrebbe essere soltanto un problema di velocità, perché il circuito deve essere in grado di superare tutto il suo transitorio, diciamola così, e riuscire a trasferire l'energia nel breve tempo, certo, durante il quale l'automobile passa al di sopra di una bobina. E teniamo conto che questo tempo può essere di qualche decina di millisecondi. E certo. Senta, invece c'è un'idea che ogni tanto si riaffaccia, no? Abbastanza fantascientifica, quella che addirittura un giorno si possano utilizzare tecnologie di questo genere, di trasmissione dell'energia wireless, per trasmettere energia dall'orbita terrestre alla Terra, o viceversa. Ci sono progetti per mandare sonde, no, nello spazio e alimentarle con qualche fascio laser addirittura. Come vede queste idee, naturalmente lontanissime dall'essere così realizzate in pratica? Allora, la prima idea la vedo sicuramente più attrattiva, nel senso che riuscire a captare energia al di fuori dell'atmosfera, che ne filtra un bel po' dell'energia solare, certo, e poterla portare all'interno sarebbe una cosa molto bella. C'è da tenere conto che comunque quell'energia dovrà attraversare l'atmosfera, quindi bisognerebbe trovare delle frequenze non filtrate dalla nostra atmosfera, certo, e bisognerebbe anche essere in grado di garantire un percorso libero da qualsiasi cosa nel trasferimento di energia. Quindi secondo me questo va su un orizzonte temporale che sfora il nostro secolo. Ecco, diciamo che poi l'eventuale stormo di anatre che passasse di lì verrebbe cotto all'istante, se non sbaglio. Insomma, ci sono problemi non banali di questo tipo. Va bene, grazie Piegari. Grazie a lei, buona serata. È tutto, a domani.